La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. Lui dice che siamo solo amici, ma mi cerca sempre, e quando non mi vede diventa nervoso. E se ho qualche altro amico è pure geloso. Però è innamorato di un'altra, e dice sempre che noi non passeremo mai il confine che divide l'amicizia dall'amore. Ma io vorrei sapere questo confine, dov'è? Se è come tra la Francia e l'Italia, coi paletti e le dogane, oppure se è qualcosa di più sfumato. Rispondimi. Isa. Nella tua lettera si sente questa attesa favolistica, che la zucca si trasformi in carrozza, i topi in lacchè e una serata qualsiasi diventi la serata decisiva. E intanto piccolo stato di adulti, di ragazzi, raggelati dall'incertezza, consumano i gesti dell'amicizia mettendoci tutte le intenzioni dell'amore. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Ho lasciato mia moglie perché non mi faceva mangiare. Lei era gelosa del gusto che provavo a tavola. Diceva che chi fa bene l'amore non ha tanta golosità. Io invece l'avevo. E dieta qua e dieta là, mi sentivo proprio un infelice. Ogni pasto una tragedia, mangiavo di nascosto e se mi scopriva, aveva la fissazione del look. Ma che è sto look? Finalmente ho fatto finta di avere un amante e l'ho lasciata. Potevo finalmente respirare. Mangio quanto mi pare, ma sono meno goloso e smodato. Bellissimo. Hai fatto veramente bene a preferire i maccheroni a tua moglie. Lei era una rivale della tua tenerezza. Bella moglie, una che ti aveva creato attorno al cibo una repressione di tipo sessuale. I grassi fastidiosi ci sono, sono quelli, come i fumatori, che a ogni momento, a ogni boccone, promettono di mettersi a dieta, piangono, quelli che non si piacciono e che non riescono a cambiare. Ma un grasso allegro, felice di sé, magari a trovarlo. Sono così copiosi, così accoglienti, così morbidamente orchi. Tornando dal Salone del Libro di Torino, vi avevo parlato di una biografia a fumetti intitolata Negli occhi il cinema, nelle mani l'amore, storia di Ottavio Mario Mai, con la prefazione di Angelo Pezzana, questo sovversivo in doppio petto, autorevole come Cavour che fondò il Fuori, fronte unitario omosessuali rivoluzionari. Gli autori sono Giovanni Minerba, Elsie Perino e i disegni bellissimi di Mattia Surroz. La postfazione è di Ivan Cotroneo, edizione E. Espress. Oggi i festival del cinema vengono su come i funghi, ciò che da una parte rallegra, però se continua così finiranno per assomigliarsi tutti. Ma ce n'è uno che non si può imitare. Parlo del Gay Film Festival di Torino, ideato 27 anni fa da Ottavio Mai e Giovanni Minerba, che all'inizio si chiamò Da Sodoma a Hollywood, con un logo spiritosissimo di Marco Silombria, dove c'è Charlot a torso nudo, ma col suo solino al collo, che distrattamente tiene fra due dita il capezzolo dell'uomo di Frankenstein, il quale lo guarda bovinamente perplesso. Ottavio e Giovanni si erano incontrati a Torino nel 1977. Ottavio faceva il tassista, Giovanni il macellaio. Ottavio veniva da Roma, Giovanni da Lecce, ed entrambi da storie difficili. Erano due ragazzi, ma già con tanta esperienza, la realtà la conoscevano bene e proprio per questo avevano una gran voglia di cambiarla. Ottavio era stato venditore di bibite nei cinema, metalmeccanico prima in Germania e poi alla Fiat, e alla fine si era iscritto all'università, a scienze politiche e poi filosofia. Queste notizie le prendo dalle note di Alberto Barbera su un altro libro su Ottavio, pubblicato nell'autunno scorso, a 20 anni dalla morte. Ottavio Mario Mai era scrittore, poeta, appassionato di cinema, e con Tagio Giovanni il cinema diventò il loro grande interesse condiviso. Io dico sempre agli innamorati: mettete su delle tabaccherie, l'importante è avere un'impresa in comune. Ottavio e Giovanni fecero di meglio. Il loro sodalizio è stato un turbine di progetti e di difficoltà e di invenzioni per superarle. La prima era che loro due si amavano e stavano insieme, e già questo allora era più difficile di oggi. Non è che dopo 35 anni ci sia tanto da stare allegri come diritti. Ancora il riconoscimento delle coppie di fatto ce lo sogniamo. Allora però era peggio. Ma Ottavio e Giovanni erano due lottatori pieni di passione politica e davano battaglia. Diventano militanti del Fuori e del Partito Radicale. E un giorno Ottavio decide di mettersi dietro la macchina da presa. Insieme con Giovanni girano in Super 8, a costo bassissimo, dei piccoli film. Sceneggiano, recitano, fanno recitare gli amici, si alternano a volte alla regia. Piccoli film. Ma che film? Alcuni temi dei quali sono poi stati sviluppati, ma altri ancora oggi restano originali e non esplorati. Sono giochi, divertimenti, prediche, brani di vita. Dico alcuni titoli: La preda, Più vivo di così non sarò mai, un omaggio alle poesie di Sandro Penna, Io non sono come te, Attenzione camionisti, tragici, divertenti, sperimentazione. Quando i giovani potevano ancora essere giovani, quando c'era la speranza. Io li conobbi allora, erano affascinanti. Ottavio, con un sorriso aperto da seduttore, dice la loro grande amica Laura Righi, Ottavio era seducente perché si lasciava sedurre. E Giovanni, col fascino del riserbo, più silenzioso, tutti e due con dei gran baffoni. Mi ricordo la loro casa, sui tetti di Torino, vivissima, piena di libri, di idee, di intenzioni e di drammi e di pellicola. Il Gay Film Festival, stavo dicendo, lo cominciarono insieme nel 1986 e dopo le molte difficoltà iniziali ebbe presto una fama internazionale e oggi è uno degli eventi culturali più importanti del cinema. Poi Ottavio si ammalò di AIDS e preferì uccidersi nel 1992. Per entrare meglio nella storia, leggo alcuni brani di un'intervista rilasciata da Giovanni Minerva nel 2007 a Elena Tebano. Lei chiede come è nato il festival e Giovanni Minerva: nel 1982 io e il mio compagno Ottavio Mai, che adesso non c'è più, decidemmo di improvvisarci filmmaker. Non ci vedevamo rappresentati nei film che circolavano allora e abbiamo pensato: facciamoli noi. Da lì è nato tutto. Domanda: perché non vi sentivate rappresentati? E lui risponde: i personaggi gay erano negativi. Suicidi, sfruttatori di marchette, anziani che cercavano in modo squallido ragazzi giovani. Tutti stereotipi. Giovanni parla anche di come è stato difficile per lui dichiararsi omosessuale. E dice: all'inizio mi sono anche sposato per guarire. Era il 1971, vivevo a Lecce. Macellaio, figlio di macellai. L'omosessualità non poteva neanche esistere. Poi ho capito che non potevo guarire, sempre un guarire messo tra 2000 virgolette, neppure con lo psichiatra. Passavo le notti a contemplare il soffitto. Poi una mattina ho preso la decisione. La prima cui l'ho detto è stata mia moglie. All'inizio è stato difficile. Poi, quando in paese, perché loro stavano già a Torino, no? Hanno cominciato a circolare le dicerie, ho preso il treno da Torino per andare a parlare con le nostre famiglie. Mia madre e mia suocera, all'inizio, non hanno capito neppure cosa significasse essere omosessuale. Lo ha spiegato in maniera piuttosto volgare mio suocero. Ma quella che l'ha presa peggio di tutti è stata mia sorella. Per anni non mi ha invitata a casa sua. L'intervistatrice chiede: oggi per i gay è più facile? Sì, oggi sono di meno quelli che per paura hanno una doppia vita. Eppure è incredibile la realtà in cui siamo ancora adesso. Io sono un cittadino che di sicuro ha solo i doveri, i diritti no. A cominciare da dover dare prova che noi gay esistiamo, che la realtà è la realtà E quando sento la Chiesa paragonare l'omosessualità alla pedofilia e all'incesto, l'intervista del 2007, non c'era ancora il nuovo Papa nel quale speriamo tutti. Proprio non riesco a starci. E allora cerco di andare avanti, di rispondere con i miei mezzi. Prima di tutto è il cinema. Con Ottavio ci siamo conosciuti per caso, per strada, quell'incontro che ti cambia la vita. Da quel momento lui ha iniziato a entrare in politica più di me e io a fare il cinema. Ci siamo scoperti insieme cineasti. Lei chiede come è morto Ottavio. La sua morte è stata anche colpa della campagna anti-AIDS di quegli anni. Ottavio aveva scoperto di essere sieropositivo nel 1987, ma stava bene. Poi, nel 92, ha avuto una piccola ischemia, indipendente dalla sua malattia, e in ospedale gli hanno messo in stanza un nostro conoscente che aveva l'AIDS inoltrato. Lo ha sconvolto vedere una persona che prima era pimpante, brillante, stare così male. Io dovrò trovarmi in queste condizioni, diceva. E poi si è ucciso. Elena Tebano gli chiede come ha superato una cosa del genere, continuando il lavoro che facevamo insieme. È stato lui a darmi questa grande forza. E le persone che avevo intorno, col mio attuale compagno, Damiano Andresano, ci siamo conosciuti la notte del compleanno di Ottavio, circa un mese dopo la sua morte. Per me è significativo, come aver trovato qualche tempo dopo un gatto vicino alla sua tomba. Sta ancora con me, come voleva lui, e l'ho battezzato Mario, lo stesso nome con cui chiamavano Ottavio in famiglia. Ecco, e qui abbiamo negli occhi il cinema, nelle mani l'amore. È difficile raccontare questa lunga lotta, un'atmosfera, un'epoca, l'amore, la tragedia, in un libricino di segni che si legge in 40 minuti. Eppure Minerva, Perino e Surroz ci sono riusciti. Questo fumetto è in verità un film. È un film non convenzionale, audace nei passaggi, con un taglio moderno, ma anche con una antichità da cantastorie. È un piccolo capolavoro di grazia e di mistero per tutto quello che sa evocare e fa intendere con un tratto di penna o con una battuta e soprattutto con ciò che non racconta. C'è anche la poesia che scrisse Ottavio, il quale da ragazzino era stato a riformatorio per piccoli furti, e parla di quando lui appunto era rinchiuso. Niente ho visto. Chiuso in una cella di cemento ho udito il frastuono delle macchine, il brusio esuberante della domenica. Il mondo sono io, nella mia solitudine. O forse mi trovo dietro i confini dell'umanità. Domanda inutile, a cui fa eco questa corsa continua della cascata nella notte. E poi abbiamo il momento fondante di tutta la loro impresa, quando Ottavio è scontento e Giovanni dice: ma che hai? E lui: sempre ste storie di froci, tutte uguali e tutti perversi e tutti sbagliati, mai una storia vera, mai due che si conoscono e sono felici. Mi sono rotto le palle di vedere sti film, Giovanni. E Giovanni: sei sempre il solito insoddisfatto, sempre a lamentarti che tutto è sbagliato e a volere le cose diverse da come sono. Allora fateli da soli i film. E infatti se li faranno da soli e saranno una sperimentazione davvero memorabile che ripercorre un'epoca. Qui poi c'è il momento glorioso quando decidono di fare questo festival del cinema gay. Tutti gli dicono: ma siete pazzi. Ci sono naturalmente i sostenitori come Laura Righi, la quale si presta, va da tutti i negozianti di Torino a chiedere un po' di soldi, perché ci vogliono i soldi, anche pochi, ma per stampare i programmi, le locandine, per fare arrivare i registi da tutto il mondo. E allora racconta le risposte, dice: no, quali soldi me li hanno dati? Ma sì, oggi sono passate per tutti i negozi del centro per spillare un gruzzolo e devi vedere come si nascondono. I soldi te li danno, sono molto gentili, ma guai se dici che gli spedisci i biglietti. Tutti a dire: non mi mandare niente, noi non ci conosciamo, tieni pure i soldi, ma non sperare di vedermi lì. Il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. I was petrified, kept thinking I could never live without you. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back. Tutto questo che ho raccontato è leggenda ed è realtà. E abbiamo Giovanni Minerba, che da Torino ha accettato di parlare con noi. Giovanni, sei in linea? Sì, ciao Barbara. Senti, io sono entusiasta di questo vostro libro. Ci vuoi raccontare un po' com'è nato? Perché questi ragazzi che l'hanno fatto sono giovani, non hanno conosciuto Ottavio, quindi è l'elaborazione di un tuo racconto. Allora, è nato tutto, diciamo, quasi per caso. Stavamo pensando, in occasione del 20° anniversario della scomparsa di Ottavio, la ripubblicazione di In punta di cuore. Ne abbiamo parlato con un giovane editore torinese, Emanuele Malaffiotti di Express Edizioni, e lui non era convinto molto su quella pubblicazione. A un certo punto è venuta un'idea a una delle nostre amiche, Paola Cuniberti, che ha detto: ma perché non affrontiamo un'avventura di un bel fumetto, di una graphic novel? Lei ha proposto due persone, cioè due giovani ragazzi, Mattia Surros, che ha disegnato il fumetto, e Elsie Perino per i testi, ed è incominciata l'avventura. Elsie Perino ha ascoltato tutto il mio racconto, e quindi racconto di altri amici che ci hanno accompagnato negli anni, raccontare un po' di aneddoti, di storie di quello che è successo in quegli anni insieme a noi, e è venuta fuori questa cosa molto, secondo me molto bella e molto importante, soprattutto per quanto riguarda lo spirito con la quale è stato affrontato da parte di questi giovani che non hanno conosciuto Ottavio, ovviamente, ma sono entrati dentro l'atmosfera nostra in un modo eccezionale, e questo mi ha fatto molto piacere. Io non finirò mai di ringraziarvi, l'ho già detto. Beh sì, perché questa vostra storia è così complessa, così anche intrecciata con le vicende politiche e storiche italiane, ci si sarebbe potuto fare un poema epico sconfinato, eppure c'è questo assaggio che dice tutto. Sono stati bravissimi, secondo me. Ogni tanto mi vengono in mente, perché ovviamente ne abbiamo parlato con Elsie ore ed ore, ma ogni tanto comunque ricordo qualcosa che forse non l'ho detto, e questo a volte mi dispiace, ma dovevamo farne un libro di 400 pagine per raccontare tutto, ma forse basta quello per raccontare un'atmosfera di quei tempi molto importante per noi, e che è stata un'avventura che forse in pochi hanno vissuto. Senti, tu racconti in questa, abbiamo letto prima dei brani dell'intervista che avevi rilasciato nel 2007 ad Elena Tebano, e racconti di come il giorno del compleanno di Ottavio, un mese dopo la sua morte, tu incontri Damiano Andresano, che poi è diventato il tuo compagno. Quando Ottavio se n'è andato, tu sei rimasto solo con questa grande creatura e difficile creatura che avevate creato insieme, ovvero col film Gay Festival. Com'è stato per te? Damiano ti ha aiutato? Damiano ovviamente non era dell'ambiente cinematografico. Mi ha aiutato in tutti i sensi, soprattutto per quanto riguarda la mancanza, il supporto morale, ma c'erano tutti gli amici che giravano intorno al festival che non potevano che darmi la forza di andare avanti. Il primo anno è stato ovviamente molto difficile, ma poi comunque siamo andati avanti e il festival anno per anno è cresciuto. Damiano è stato una presenza importante un po' per quella che, per la circostanza in cui ci siamo conosciuti. Lui ha cercato in tutti i modi di conoscermi e per poter starmi vicino. La circostanza è stata strana, perché ci siamo conosciuti vicino al cimitero, dove io andavo anche di notte a trovare Ottavio, e sono quelle cose che poi lasciano il segno, perché ovviamente noi da quel momento la nostra storia continua, non è stata una storia per caso, come non è stata una storia per caso adesso non ricordo se nell'intervista di Elena Tebano c'era il racconto del gatto che io ho incontrato al cimitero che ho portato a casa. Ottavio aveva lasciato scritto di cercare un gatto rosso e chiamarlo Mario, perché Ottavio si chiamava anche Mario. Io questo gatto rosso l'ho trovato vicino alla sua tomba, dopo qualche mese che lui era mancato. E quindi ti sei trovato con questo, perché lo avete cominciato, diciamo, amatorialmente, e poi in pochi anni è esploso questo festival. Quando nel 1992 Ottavio ha fatto in tempo a vedere questo grande successo che avevate avuto insieme? Sì, e quell'anno lì, il 92, è stato un'edizione bellissima, perché c'era una retrospettiva dedicata a Genet e tutti i film ispirati all'opera di Genet, e Ronconi fece una bellissima lettura di un testo inedito che era di proprietà di un signore torinese al Teatro Carignano. Fu un'edizione molto bella e molto importante rispetto all'evoluzione del festival. Hai citato infatti le retrospettive, perché è una delle cose molto interessanti del vostro festival. Io ricordo quando sono venuta una volta, c'era la retrospettiva di Cocteau, tutto ci siamo visti, dalla Bella e la Bestia alle Sanfan Terrible. Senti Giovanni, voi avevate molte speranze, tutti avevamo molte speranze. 35 anni dopo il 1977, quando voi vi siete incontrati, qual è oggi la reale situazione della libertà di seguire le proprie inclinazioni erotiche, sentimentali e via dicendo? La realtà è evoluta a livello della gente comune, di quello che ci sta intorno, non è evoluta a livello giuridico, a livello, come dire, nessuna legge in Italia è possibile, nessun diritto in Italia è possibile, ma la gente se lo aspetta da un momento all'altro, la gente, non solo la comunità LGBT, ma tutti, perché comunque in qualunque situazione ti trovi, la gente è molto più avanti di quella che è la politica, di quella che è la Chiesa, eccetera, eccetera. Purtroppo in un certo senso non è cambiato molto, ma è cambiata molto la gente, i giovani di adesso riescono molto di più di allora a venire fuori, a fare coming out, a parlare con i genitori, e i genitori capiscono più di allora. Forse allora noi non eravamo molto convinti, ma adesso i giovani hanno più coraggio, diciamo, a venire fuori. E poi in ogni caso, secondo me, le proprie scelte non si possono fare col permesso dei genitori. Non si possono fare né col permesso dei genitori, ecco, né con la legge. La legge dovrebbe solo farsi da parte e riconoscere quelli che sono i diritti, quelli che sono gli amori di chiunque, non solo delle persone omosessuali. Qui all'inizio del libro voi scrivete: erano gli anni in cui alcune persone si facevano pioniere per sentire pian piano legittimata una carezza in mezzo a un corso affollato. E tra le persone che ci consegnano una tale eredità ci sentiamo di ringraziare più di tutti Ottavio, fulcro e imprescindibile protagonista di questa storia che non dovremmo smettere di raccontare e ricordare mai. Quel momento lì, per le persone come noi, come Ottavio, come Pezzana di allora, Francone, Enzo Cucco, quelli che hanno dato una spinta enorme, non possiamo che chiamarci pionieri, e Ottavio era uno di questi, perché la sua testardaggine poi ci ha portato a fare il nostro cinema, a fare il nostro festival, lui è stato determinante in tutto questo. Io, prima di conoscere Ottavio, facevo il macellaio, Ottavio faceva il tassista, quindi due persone di strada che facevano tutt'altro se non poi mettersi testardamente, sì, a farsi riconoscere, a dire il proprio sentimento su quella che è la nostra vita, la vita di tante persone in quel momento che ancora non riuscivano a dire la propria. Oh, grazie Giovanni. Tra l'altro, a proposito del fatto appunto che dice che la gente è molto più evoluta delle istituzioni e anche dell'informazione, io ricordo qualche anno fa sono venuta al Gay Pride a Torino e mi ricordo l'evento grandissimo era la gente. tutte le strade col corteo mischiato alle carrozzine, alle coppie di vecchi signori, a gente che semplicemente stava lì perché riconosceva questa cosa. E c'era una grande distanza tra questa bella manifestazione di piazza e poi come veniva dato, scritto nei giornali e dato in televisione. Questo è stato sempre un problema, quello dell'informazione che a volte non riusciva ad arrivare realmente com'era. Tu ricordavi il Pride di Torino, io ricordo il Pride che era stato fatto a Bari circa 10 anni fa. Ti ricordi che c'erano le signore sdentate vecchissime, ecco, che c'erano bravi, bravi, sì. Non dimentico quelle scene delle persone che si avvicinavano a te, si avvicinavano a noi per ringraziare di quello che stava succedendo. Questo vuol dire appunto che la gente è comune e più avanti di noi quasi. Sì. Non c'era bisogno per avere la conferma. Io il primo Pride a Torino nell'82 in via Garibaldi, quando una vecchietta si è affacciata dalla finestra a buttarci i fiori, è una scena tra l'altro riportata nel fumetto fatto sì, da sì. E Mazzia. Questo mi fa pensare appunto che la gente è più avanti, invece la politica, l'informazione ancora fa fatica a costituirsi, mi viene da dire, a dire basta, devo mettermi da parte e capire esattamente come stanno le cose. Beh, io non posso che ringraziarti Giovanni per tutto quello che hai fatto e stai facendo per noi, che hai fatto insieme a Ottavio, che hai continuato a fare da solo, e anche per la passione e il puntiglio storico e affettivo con cui hai sempre tenuto viva la memoria di Ottavio. Il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Aiutami, ma subito, perché fra 2 mesi mi sposerò e credo che sarà la fine della mia vita. 3 anni sono stata con un ragazzo che poi mi ha tradita e io non ne ho più voluto sapere. Lui andò a lavorare in un altro posto e io finalmente, dimenticato, credevo, mi fidanzai con l'uomo più ambito del paese, avvocato, ricco, non troppo di buon carattere, ma molto attaccato a me e pure alla famiglia. Mio fratello si è trovato in difficoltà con il suo esercizio e lui gli ha dato una mano coi soldi e le conoscenze. Casa pronta, corredo magnifico, nozze fissate. D'un tratto si ripresenta lui, il traditore, cambiato. Dice che noi due dobbiamo stare insieme, che non devo sposare nessuno, che devo andare via con lui. Ma come faccio? Sono impegnata con l'altro. Mio fratello non gli ha mai ridato i soldi. Guendalina. Beh, che trovi il modo di ridarglieli. Si ingegni, faccia un altro debito, delinqua, ma che non venda la sorella. Senti, io non ti voglio consigliare per forza di lasciare tutto e seguire l'amore, perché non so come sei fatta. Magari per te il rango sociale, la sicurezza economica valgono più della libertà, e allora segui la tua inclinazione. Però se tu sei soltanto intimidita dai legami di gratitudine che i tuoi familiari, poi diciamo di ricatto anche, hanno col tuo futuro marito, fai qualsiasi pazzia pur di non sposarlo, passa sopra tutti. C'era un vecchio film di Pupi Avati che si chiamava Il testimone dello sposo e mi piacque molto l'idea, cioè la sposa va in chiesa davanti all'altare e si innamora del testimone, e l'idea che perfino nel momento stesso del rito in chiesa si può cambiare strada e ribellarsi a una cerimonia sacrilega perché è falsa. Ora, questa però era una storia di 100 anni fa. Lì è il padre della sposa che è indebitato col genero e, cosa molto più frequente allora, gli vuole vendere la figlia. E quando lei disperatamente prega ai genitori di non farla sposare con un uomo che detesta, quegli egoisti le dicono che lei è l'egoista. Lei proprio in chiesa si innamora di questo testimone che era il giovane Diego Batantuono. E proprio il fatto che sia accaduto lì per lei è una cosa sacra. Per lei il matrimonio è stato con lui. Tra l'altro il film finiva bene. Non si può vivere per fare una cortesia ai parenti. Ma ancora oggi quante felicità sacrificate all'appartamento, alla zuccheriera, alla bella macchina. No, e poi c'è questo personaggino che abbiamo trascurato, scusate, ma lo sposo? Anche lui sarà soltanto un pezzo della compravendita? No, poveraccio, mi fa pena pure lui, perché è un peccato grave per chi crede dire davanti a Dio e agli uomini quel sì, quando invece è un no. È un peccato mortale. A proposito del libro sulla guardiana del faro, che è uscito da poco con imprimatura a cura di Gloria Guerrera e con la prefazione di Gianluca Nicoletti, io non so se qualcuno lo comprerà, però abbiamo già avuto una soddisfazione che ci compensa di tutto. Ma cosa sono le ragazze d'oggi? Ma ai miei tempi non erano mica così spiritose. Qualcosa è successo veramente. Giorni fa una ragazza mi ferma, dice: mi chiamo Ilaria. Ah, piacere. Si è tolta la scarpa sinistra e mi ha fatto vedere un bel piede con lo smalto blu, e su questo piede era tatuata la frase simbolo della guardiana del faro: l'amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia. Ma una volta tanto un bellissimo tatuaggio, pieno di grazia, eseguito con delicatezza, con maestria, non di quelli che deturpano, che sfregiano, ma che abbelliscono il piede. Lo potete vedere sulla pagina di Facebook della Guardiana del Faro, perché Gloria Guerrera l'ha fotografato. Ora, non essendo io una rock star, è un caso unico al mondo, cioè Ilaria è l'unica che ci porta sul suo corpo. L'idea che una fanciulla calchi la terra con un piede così istoriato mi fa traballare dalla felicità, perché oltre alla vanità il mio senso del gioco è soddisfatto. Qui Capitaneria di Porto, la signorina tatuata è in arrivo al faro di Finisterre. Posso entrare? Oh, benvenuta Ilaria. Senti Ilaria, io vorrei sapere una cosa. Intanto, dicevo prima, mi trovo entusiasmante che una ragazza vada a piede libero, ma mi dici una cosa, come ti è venuto in mente di farti tatuare questa frase? Perché è un programma di vita, cioè una ha l'intenzione di calcare la terra con un piede, con un'affermazione di libertà. È stato un amore a prima vista, io la frase l'ho vista sotto una foto del Gay Pride di un mio amico, e un altro mio amico ha commentato: l'amore per i coraggiosi, tutto il resto è coppia. E la prima volta che l'ho visto ho detto: vabbè, questa la devo vedere tutti i giorni. E c'è gente che, come il mio patrigno, si attacca alle poesie di Pablo Neruda negli sportelli degli armadi, e io ho detto: invece me lo tatuo, perché così tutti i giorni appena mi alzo devo ricordarmi che l'amore per i coraggiosi e tutto il resto è coppia. Poi io non so se tu hai dato lo stesso significato che ho dato io a questa frase. Io l'ho interpretata come: esistono tante coppie che vanno avanti per inerzia, ma questo non vuol dire che ci sia amore. E con questo che dico non voglio recriminare le coppie che si amano, perché altrimenti andrei contro anche al mio fidanzato, alla mia coppia. Però secondo me, quando l'amore finisce, non bisogna portarlo avanti all'infinito, quindi quando il sentimento non c'è più, basta, perché per amare qualcuno ci vuole veramente coraggio. Amarlo sotto tutti gli aspetti, buoni e cattivi. Uno è fortunato se sta in una coppia e se ama l'altra persona ed è amato. E nella vita l'hai messa in pratica? Perché una massima, se ti innamora, vuol dire che ce l'avevi dentro. Sì. E quindi pensi di essere stata fedele a questa idea? Io penso di sì, per la mia poca esperienza. Alla fine. Quanti anni hai? 25 ne devo compiere ad agosto. Nelle mie coppie, nelle mie storie d'amore, io non mi faccio trascinare se il sentimento è finito. Per quanto mi dispiaccia, però io tronco e quindi... Senti, e gli altri cosa dicono quando vedono il tatuaggio? Con questa frase così impegnativa. Non lo so, non tutti penso che la capiscono. Infatti mi guardano e fanno una faccia storta, perché, boh, forse pensano che io ce l'abbia con le coppie. Però... Perché quando finisce l'amore subentra la coppia, che diventa una somma di compromessi, e quindi non è che le persone non devono stare a due. Ci sono storie bellissime. Ilaria, tu studi medicina, ma che cosa studi esattamente? Beh, io mi sto laureando a luglio con una tesi in chirurgia plastica e sto studiando il cambio di sesso uomo-donna. E praticamente la mia tesi parla di una nuova tecnica che abbiamo studiato col nostro dipartimento a Roma, che consiste nel prelievo di mucosa buccale un'espansione di questo tessuto per foderare le cavità della neovaggina, perché altrimenti le tecniche precedenti, la tecnica classica, consisteva nell'invaginazione dello scroto ormai svuotato. Però la pelle dello scroto non è uguale alle pareti fisiologiche della vagina, quindi aveva un sacco di difetti. Uno, la lubrificazione. E oltre le cellule sebacee che davano un brutto odore, infatti i miei trans dicono puzzava di pesce. E invece con questa nuova tecnica non c'è più il problema di lubrificazione, la donna non avrà un orgasmo vaginale, avrà solo l'orgasmo clitorideo, perché il clitoride viene ricreato con pezzi di glande scolpiti a forma di clitoride. E questo è nuovo, tutto questo? Questo è nuovo, sì. Lo stiamo facendo noi a Roma e niente. E nel frattempo vai da un maestro tatuatore e ti fai tatuare questa frase sull'amore. Eh sì. Sul tuo leggiadro piede. Qui, capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.